Linee d'ombra di Matteo Caccia. Mi trovavo di fronte a una persona che non parlava la mia lingua, che mi indicava il mio sci giusto e non quello rotto. Dammi tu il tuo sci giusto, che così io finisco la gara. Con la marcia lunga ti giocavi tutto in una fredda mattina tra le valli di Fiemme e di Fassa. La nostra sfida olimpica. In palio l'onore e un credito di sfottò ai danni dell'altro. Storie di fondisti e di sciatori scomparsi in una puntata che si intitola Sulla neve. Quando cammina così Alberto è una... sta rischiando addirittura troppo. Ero arrivato all'intermedio con un secondo e mezzo di vantaggio. Perché sta andando al limite e attenzione! Attenzione, è rimasto dentro Alberto, è rimasto dentro, sta facendo una cosa pazzesca. Quindi potevo permettermi anche quell'errore, quella fermata, un caffettino per dire, dic veloce. 99 su 100 altri sciatori non sarebbero stati capaci di ritornare in pista, invece lui con la reattività muscolare assolutamente fuori dal comune che aveva ci riuscì. Si è rialzato, ripartito e ha vinto ancora e lui ha... arrivato in fondo e secondo me pensava che avessero sbagliato il suo tempo e invece è Deborah Compagnoni che parla in questo caso. Chi ha memoria di quel momento ha la memoria di un gesto sportivo incredibile. Stiamo parlando del 1994, siamo in Austria, siamo a Lech e Alberto Tomba fa una cosa che nessun altro avrebbe potuto fare. Quasi cade, quasi esce di pista, si riprende la gara e va a vincere una gara. E quando arriva c'ha quella faccia che solo Tomba poteva avere, da guascone che dice ma no, non ci credo, e vince in una maniera incredibile. Era davvero un'epoca quella in cui il sabato a pranzo tornavo da scuola e come moltissimi ci guardavamo, ritardavamo il pranzo, che a casa mia è una roba che all'una si mangia sempre, ritardavamo il pranzo per vedere la seconda manche del gigante o dello speciale di Alberto Tomba, e tutti avevano voglia di sciare, tutti avevano voglia di mettersi un paio di sci e provare, magari non a fare quello che faceva Alberto Tomba, ma provare a stare sulla neve. Grandi emozioni, ringrazio sempre gli sportivi che mi hanno fatto girare in un certo modo. Penso a Diego Alberto Milito per un verso, e chi vuole capire capisca, e invece Alberto Tomba per un altro, che ha unito davvero tutti noi amanti dello sport, dello sci e di quel giovane carabiniere bolognese. Si intitola Sulla neve la puntata di oggi, per questo siamo partiti da Tomba, perché vi raccontiamo due storie. Una è una storia che parla della marcia lunga, che è una lunga maratona di sci di fondo che ci ha inviato Carlo, che ci dice: questa è una storia di amicizia tra un uomo, il suo amico fondista, lo skimen da battere e uno sfortunato finlandese, che è un tizio che incontra lui durante la sua gara. E poi andiamo invece negli Stati Uniti, dove uno sciatore americano a un certo punto scompare per se stesso, perché non ha memoria di quello che è successo, e scompare alla vista degli amici e si ritrova a 3000 km di distanza, sempre vestito da sciatore ma praticamente al mare. Insomma, si intitola Sulla neve, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Erano gli anni in cui una certa indipendenza economica ci consentiva di affrancarci dal cortile di famiglia e di vivere le nostre speranze come scelte individuali e consapevoli, utili ad affinare gusti e propensioni. A formare la personalità, si diceva. E così, chiuso il capitolo dell'adolescenza con le sue spinte in avanti, a volte anche oltre il perimetro della prudenza, ci ritroviamo io e Stefano a condividere una nuova dimensione della nostra amicizia. Il sudore che scende dalla fronte, il fiatone dopo una corsa, le braccia stanche dopo mille spinte. Più tardi scoprimo che tutto questo stava sotto la definizione di sport. Correre in estate, sciare in inverno. Sci di fondo, si intende. Erano gli anni dello skating, di questa nuova tecnica che vedeva gli azzurri primeggiare. E noi, semplici amatori cittadini, a rivedere i VHS a rallenti per scoprire i segreti della tecnica, di quella danza da pattinaggio, di quel dondolare al posto dell'alternare. Io e Stefano ci credevamo, e per noi lo sci di fondo era la fuga della domenica, verso le montagne, verso le nostre sfide. nella sacca un paio di sci e nello zaino l'entusiasmo contagioso da condividere tra noi e altri nuovi amici. Io e Stefano abbiamo avuto un'adolescenza un po', diciamo, turbolenta, non proprio borderline, però insomma in quel periodo sperimentavamo molto, eravamo un po' quel genere di ragazzi, finché ad un certo punto, crescendo, la maturità è quella cosa che ti consente di fare la selezione tra le cose belle e le cose brutte, incominci a dire no, questa è una cosa bella e la voglio approfondire. E una delle cose belle che ci ha unito a me e Stefano è stata proprio l'aspetto sportivo, cioè di esserci ritrovati tutti e due in qualche modo a scoprire questa passione comune per gli sport di resistenza. Pattinate a solcare le piste di neve della Bergamasca in vista di quella che era la nostra sfida principale, cioè la marcia lunga. Chi vince tra noi alla marcia lunga ha diritto per un anno a primeggiare sull'altro, ci dicevamo. E gli amici della baita ovviamente aizzavano quei due duellanti, gettando benzina sul fuoco. Allora, chi sarà il più forte quest'anno? Ti giocavi tutto in una fredda mattina di fine gennaio, tra le valli di Fiemme e la Val di Fassa. La nostra sfida olimpica. In palio l'onore e un credito di sfottò ai danni dell'altro. Quell'anno era il 1992, andammo persino in ritiro, io e Stefano, a Ponte di Legno, ospiti in casa di un amico, per 3, forse 4 giorni di puro allenamento. Ci credevamo degli atleti, non sapevamo se lo fossimo davvero, ma era il nostro videogame. Il sabato, vigilia della gara, la solita prassi del ritiro pacco gara a Cavalese. Entriamo nel pala congressi con Renato, notoriamente il vero atleta del gruppo, l'uomo da battere. Uno da primi 1000 in classifica generale, per intenderci. Sarebbe bello arrivare così in alto nella classifica quest'anno, chissà. Renato è anche quello che mi ha insegnato a sciolinare gli sci. Pochi consigli, ma precisi, mirati. Il resto l'ho rubato osservandolo. Mi fermo a guardare un video della partenza dell'anno precedente. La ripresa aerea svela una dinamica strana. I fondisti che stanno a destra evitano numerosi ingorghi nella piana di Moena. E quindi è ciò che farò. From the top you can see so far into the distance. Look, it's downhill all the way from here. And getting there is quicker than going you just slide. Shouldn't take more than a year. I could almost like you. Now it's nearly over. Now you've shown some weakness. Now you're looking older. And I heard what you said and I recognize those feelings. I know how hard it is to watch it go. And all the effort that it took to get here in the first place. And all the effort not to let the effort show. And I could almost like you. Now you're falling over. Now you're feeling hopeless. Now you're looking over your shoulder. Al via sono molto concentrato. Stefano lo perdo già dopo pochi metri nella calca dei 6000 partenti. Tante ore di allenamento, ski roll, corsa a piedi e poi ancora sci e sempre sci. Supero le prime salite con precisione chirurgica. La scelta di stare a destra è azzeccata. Mi trovo in gruppi veloci. Tengo il ritmo fino a Canazzei. Il giro di boa, da dove comincia il ritorno in discesa che attraversa nuovamente la Val di Fassa. Supero numerosi vecchi senatori, i fondisti che hanno concluso tutte le edizioni della gara. Sono riconoscibili perché indossano una tuta speciale, esclusiva, di un club privilegiato destinato, ahimè, all'estinzione. Nella discesa di Soraga sono richieste doti di equilibrio, il fondo è ghiacciato, lisciato dallo spazzaneve di chi ci ha preceduto. Lascio correre gli sci nella calca di decine di fondisti, ma per evitare un senatore che, cadendo mi taglia la strada, viro improvvisamente a destra, perdendo il controllo sul ghiaccio vivo e atterrando sul sedere a bordo pista, tra cumuli di neve indurita. Lo sci destro frusta uno di questi ammassi nevosi e, tac, la punta si spezza. Mi alzo, tento di sciare con lo sci a penzoloni, ma dopo pochi metri capisco che è un'impresa impossibile. Grido di rabbia una volta, due volte. Con gli sci in mano corro verso il fondo della discesa alla ricerca di un servizio assistenza che, ahimè, risulta troppo lontano. E mentre cammino mestamente a bordo pista, inizio ad accettare l'idea della resa, dell'atroce sconfitta, dello scherzo che il destino ha voluto riservarmi in questa domenica dal cielo plumbeo. La Marcia Longa è una gara di sci di fondo di 70 km che si tiene l'ultima domenica di gennaio da più di 50 anni nelle valli di Fiemme e di Fassa. Siamo quindi in Trentino, sono 70 km che sono a fondo valle e vi partecipano oggi normalmente sulle 7.000 persone, grosso modo 7-8.000, ed è una gara a numero chiuso. Gli italiani sono solamente 2 o 3.000. Con le spalle basse mi avvio alla ricerca di una soluzione. E nel frattempo mi supera Renato. Incrocio il suo sguardo e un urlo soffocato in gola mi spegne del tutto. Lui, il più forte di tutti noi, chiuderà all'803esimo posto quell'edizione maledetta della Marcia Longa e io, per merito e ironia della sorte, avevo oltre 15 minuti di vantaggio su di lui. Mentre penso a come porre fine a quella tortura psicologica, si paventa davanti a me un fondista dalle sembianze nordiche. È lì, fermo immobile. In mano tiene un paio di sci Karoo. Uno di questi ha la punta spezzata. Lui mi guarda, io lo guardo. Lui guarda i miei attacchi, dei Salomon. Io guardo i suoi attacchi, dei Salomon. Dunque, gli sci sono compatibili, pensiamo entrambi. Sul pettorale ha una bandiera finlandese. In Linga Suomi mi pone una domanda indicando ciò che tengo in mano e per deduzione rispondo: facciamo che tu mi dai il tuo sci, quello giusto, così io finisco la gara? Lui mi risponde di nuovo indicando il mio sci, Fisher, quello buono, ancora in tonso. Ma sì, certo, penso tra me e me. Eccoti il mio sci. Lui lo mette e lo vedo andare via mentre il numero del suo pettorale diventa sempre più piccolo e io non riesco a ricordarmelo. Buona fortuna, amico mio. Io mi sposto sulla provinciale, mi raccoglie un gentile e generoso automobilista che mi porta all'arrivo di Cavalese, dove c'è il pullman che mi porterà a casa. Perché non parli? Mi chiede. Scusi, ha ragione, sono un maleducato, ma è stata una giornata storta. Lui guarda i miei sci e mi dice: capisco. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. They get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. With a phony gas chamber, 'cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. I'm a loser, baby. Beh, io ho amato la storia che ci ha mandato Carlo, perché non sono un appassionato di sci di fondo, o perlomeno non lo pratico, però sono appassionato degli sport di endurance, e immaginarmi 70 km sulla neve, beh, insomma, un pochettino di curiosità me li ha fatti venire. Pronto, ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno a te, Matteo. Come stai, tutto bene? Molto bene, bene, grazie. Senti, hai spiegato perfettamente che cos'è la marcia lunga. La prima cosa che mi viene da chiederti è che tu sappia a gennaio si terrà, ovviamente no. Ma sai, al momento non l'hanno cancellata, devo dire che le indicazioni qui, ognuno può dire la sua, quindi al momento non l'hanno quindi ognuno può dire la sua, mi sembra la frase perfetta per questo periodo, sempre in generale, ma per questo periodo è fantastico, ognuno può dire la sua, quindi insomma sono lì in attesa di prendere decisioni. Sì, anche se mi risulta che stiano producendo neve, quindi come tutti gli anni negli ultimi anni stanno sparando neve per allungarla su questa striscia di percorso che sono 70 km, perché ormai la neve in fondo valle, sappiamo, non arriva più, anche se oggi sta diventando, quindi per poterla fare si sono attrezzati gli organizzatori molti anni fa comprando dei cannoni sparaneve e quindi producono. Sì. Produrre neve è la definizione esatta? Non so. Esattamente. Produrre sì. Neve, ok. Senti, sì. 70 km, quello che vince in quanto tempo la fa? Quello che va più o meno 3 ore, diciamo, adesso, in base alle condizioni della neve. Okay. Da 3 ore in su arrivano tutti gli altri. Quello che perde ce ne mette 6. No, l'ultimo, allora, la grande storia, l'epopea di marcia lunga sta anche nel primo che aspetta arrivare l'ultimo, e l'ultimo arriva quando ormai è quasi sera inoltrata, se non notte, insomma, intorno alle 8 di sera, 7 di 8. Ed è lì ad aspettarle, c'è più gente all'arrivo dell'ultimo che non del primo, perché l'ultimo normalmente, insomma, sì, c'è molta epopea stile maglia nera nel ciclismo. Certo, immagino. E poi immagino anche del Gran Vin Brûlé, però, essendo l'ora dell'aperitivo di solito in montagna. Non solo Vin Brûlé, comunque Vin Brûlé molto carico. Certo. Senti, invece ovviamente del finlandese noi non sappiamo più nulla, cioè le vostre vite si sono incrociate lì, tu hai fatto questo gesto di enorme generosità, ciao. Sì, sì, sì, poi mai più, io vivo ancora pensando a lui e al fatto che abbia potuto portare a casa questa cosa, e chissà che cosa racconterà lui in tutti i casi. Perché probabilmente c'è un programma radiofonico in Finlandia che racconta storie di persone, magari storie di sport o storie di persone, in cui questo dice: pensa, un tizio italiano mi ha regalato il suo sci e io ce li ho appesi in casa quegli sci, perché tu ovviamente sei anche rimasto con 2 sci rotti. Assolutamente sì, sono tornato a casa con i miei 2 sci rotti, ho salvato gli attacchi naturalmente. Certo. E poi basta, ho abbandonato tutto. Senti, tu fai ancora sci di fondo oppure? Assolutamente sì. Ok, tu sei uno sportivo però diciamo abbastanza spinto, mi raccontava Anita, tu lo fai anche di lavoro, giusto, in qualche modo? Sì, io sono più o meno un collega, anzi lo sono un giornalista, mi occupo di sport, le prime gare, e ho avuto la fortuna di poter unire poi un po' la passione di sport come questi, il triathlon, di cui facevo le prime gare probabilmente con persone che tu conosci come Emilio Previtali. Emilio, certo, come no, Emilio è un amico mio, è un amico del programma dai tempi di Voi Siete Qui, quando mi mandava delle storie bellissime. Di fatto tu ti occupi racconti lo sport in qualche modo? Sì, allora io racconto lo sport per il 20% della mia attività, poi come spesso succede il giornalista ormai è diventato una professione di cui se ne sta occupando il WWF, perché è in via di estinzione e quindi ho iniziato questo percorso alcuni anni fa di ufficio stampa, di eventi sportivi, certo. Aziende di articoli sportivi. Certo, senti, quindi sei un triatleta anche? Sì, assolutamente. Hai fatto, è la domanda che si fa sempre quando uno chiede se fa triathlon, hai fatto l'Ironman? Hai fatto l'Ironman. Ricordiamo che cos'è l'Ironman, giusto per chi, poi ti saluto per chi ci ascolta. È una gara in cui si fa nuoto, bicicletta e corsa, ma ricordami le distanze? 3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta e una maratona per concludere che sono i 42 km. E diciamo, quello che non ti chiedo quello che vince o quanto ci mette, ti chiedo tu quanto ci metti a fare un Ironman. Io l'ultima volta ci ho messo meno di 11 ore, il primo l'ho fatto in 8. che comunque è ottimo, cioè, per me già sopravvivere a un Ironman è tanto, farlo meno di 11 ore mi sembra. Dove l'hai fatto? Sì. Perché poi sono sempre luoghi esotici anche, no? Beh sì, Copenaghen non è proprio esotico, però è carino, è un bel posto, sì. Ok, ok. Carlo, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata, ti faccio i miei in bocca al lupo per tutto. Grazie infinite anche a presto. Voi, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's ten below, he's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Grazie ancora a Carlo per la sua storia, per averci ricordato che cos'è la marcia lunga, e speriamo che magari in qualche modo sia possibile effettuarla, anche se chi lo sa, il problema del distanziamento rimane sempre in questa epoca, ma passerà e arriverà una nuova marcia lunga per tutti. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra. Un giovane canadese ha trovato una soluzione insolita per aumentare la fiducia in se stesso. Ha tatuato quasi tutto il suo corpo di un blu brillante. Adesso sostiene di godersi la vita molto più di prima. Ma cosa stai dicendo? Ma poi perché questa musica drammatica? Chi non aveva fiducia in questo ragazzo? Perché il governo canadese gliel'ha lasciato fare, ma soprattutto perché ha scelto il blu? Ma con chi sta parlando? Ma pensa di stare a teatro? Sul filo. Teatro in tempi di radio. Sei notizie dal mondo interpretate da attori e registi per una produzione in tempo reale. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Ma perché? Perché proprio il blu? Una coproduzione Radio 24 e Teatro Filodrammatici di Milano. Linee d'ombra. La puntata di oggi si intitola Sulla neve, e dopo la storia che vi abbiamo appena raccontato, cioè la storia di uno sciatore che decide di fare un gesto generosissimo, quello di Carlo, di cedere il suo sci buono a uno sconosciuto sciatore finlandese che invece finirà la gara e si porterà a casa quantomeno quel risultato. Ora andiamo da tutt'altra parte, andiamo negli Stati Uniti, non sono 20 o 30 anni fa, sono solo 3 anni fa, ed è la storia di un uomo che si chiama Konstantinos Filippidis, che a un certo punto, mentre scia, scompare e riappare da un'altra parte. State con noi. 3 inverni fa, Konstantinos Filippidis scompare mentre è in settimana bianca sulle montagne di Lake Placid, a New York, Stati Uniti. Sei giorni dopo, riappare a 3.000 km di distanza, a Sacramento, in California, senza ricordare come ci sia arrivato. Tutta questa storia inizia in maniera molto strana. Il 2 febbraio del 2018, Konstantinos lascia per pochi attimi i suoi amici nella stazione sciistica di Whiteface Mountain per recuperare il cellulare che ha lasciato nella sua auto. Da quel momento nessuno lo rivedrà più su quella montagna. Konstantinos crede di avere perso conoscenza poco dopo essersi separato dagli altri. La sua scomparsa ovviamente scatena una massiccia ricerca. Lui non ricorda molto dei giorni successivi, ma crede di avere fatto fermare un camion per farsi dare un passaggio. La cosa successiva che ricorda è l'autista del camion che alla domanda «Dove ci troviamo?» gli risponde «Nello Utah», a più di 2.000 chilometri da Whiteface Mountain. Well, the big question police are asking tonight is still simply how 49-year-old Konstantinos Danifilippidis wound up missing here at Whiteface Mountain and turned up alive nearly 3,000 miles away 6 days later. Il camionista lo lascia a Sacramento, California. Lui è ancora vestito con la sua tuta e scarponi da sci, senza un documento d'identità, se non una carta di credito. Alla fine riesce ad acquistare un telefono, ma gli ci vuole circa un giorno per ricordare il numero della moglie. «Ho chiamato», dice, «e qualcun altro ha risposto. Era una delle mogli di uno dei miei amici. Mi ha detto, tutti ti stanno cercando, siamo tutti qui, a Lake Placid». E io ricordo solo l'emozione per quel momento, racconta Filippidis. Quando Konstantinos è tornato a casa sano e salvo, molte domande e dubbi hanno accompagnato il suo viaggio attraverso il paese verso casa. Il presunto camionista che l'ha trasportato a Sacramento potrebbe avere le chiavi di questo mistero, ma le autorità non sono state in grado di identificarlo. Senza quel testimone chiave, la polizia sostiene che sarà molto difficile riassumere il resoconto completo di quanto realmente è accaduto. È ancora sconvolgente e scioccante pensare che sia successo, ha detto Konstantinos. John met me down on the boulevard. Cry on his shoulder, cause life is hard. The waves came in over my head. What you been up to, my babe? Haven't seen you around here late. All of the guys tell me lies, but you don't, you just crack another. This is how to disappear. This is how to disappear. Joe met me down at the training yard. Cuts on his face cause he fought too hard. And all reason over his head. But I love that man like nobody can. He moves mountains and pounds them to ground again. I watch the guys getting high as they fight for the things that they hold deep, to forget the things they fear. This is how to disappear. This is how I'm to disappear. I'm always going to be right here. Il dottor Charles Tator, un neurochirurgo canadese, sostiene che la storia di Filippidis descrive probabilmente l'amnesia come la risultante di una commozione cerebrale. L'incidente potrebbe essere una combinazione di amnesia retrograda, cioè una perdita della memoria degli eventi prima di un colpo alla testa, e un'amnesia anterograda, cioè la perdita della memoria degli eventi dopo quel colpo alla testa. Il medico racconta: succede forse nel 10% dei casi di commozione cerebrale che ci sia un periodo di amnesia. La perdita della memoria può durare da pochi secondi a 24 o 48 ore, ma è definito insolito l'episodio di Konstantinos, che è durato invece giorni e giorni. Konstantinos ha raccontato che non riusciva a ricordare il momento esatto in cui la sua memoria si era cancellata, il che, se la teoria è corretta, segnerebbe il momento in cui ha subito un trauma cranico. I'm still shocked. Like I mean, I'm back to work. I feel great, but you know, you forget about it for a few days, and then someone or something. Ora sono tornato al lavoro, racconta con la sua stessa voce Konstantino Filippidis, e sono felice. Ma me ne dimentico per qualche giorno, e poi invece qualcosa riaccende la memoria e tutto mi torna in mente. È soverchiante. Sono ancora sotto shock. Mi sento fortunato ad essere qui e poterne parlare, considerato tutto quello che avrebbe potuto accadermi. Quando mi sono svegliato, dopo una settimana ne ho parlato anche con gli amici che erano con me, con la polizia dello stato di New York. Credo che mi trovassi sulla collina chiamata Kids Hill. Devo avere girato dalla parte sbagliata. Non ero in alta montagna, ero giù, in valle. Ma non sono arrivato all'hotel, perché non ho trovato la macchina, che era nel parcheggio dell'hotel, e deve essere accaduto lì. Lì ho chiesto un passaggio per tornare in città. Back into town. Molti sostengono che alcuni dettagli della storia di Konstantinos suggeriscono che la sua amnesia potrebbe essere stata causata da qualcosa di completamente diverso, uno stato di fuga psicogeno o dissociativo. Una fuga potrebbe essere innescata da un trauma cranico, ma potrebbe anche essere scatenata da un evento traumatico o da un disturbo emotivo. Essenzialmente cortocircuitando la memoria del soggetto. I soggetti in genere non ricordano il viaggio in sé. La loro memoria spesso si risveglia quando si trovano in un luogo nuovo e sconosciuto. Gli esperti medici hanno detto che la natura complessa delle lesioni cerebrali renderà molto difficile dipingere il quadro completo di ciò che è realmente accaduto. Konstantinos ha ancora grandi vuoti di memoria, ricordi che probabilmente non gli torneranno in mente per anni. Ci sono risposte che non conosce e che non conoscerà, ha detto sua moglie, e non sarà facile conviverci. Like an animal I move through your doubt. Remove the sign on the door to keep out. Hot blood, cold hands. Hot blood. As you breathe, she will move within, without. Like a river, she is with you, she runs out. Hot blood, cold hand. Hot blood, cold hand. Like a storm I roll towards you, no delay. Full of power, saturating, slow decay. She's a shadow in the mud. And La storia di Costantino Filippidis era una storia che abbiamo trovato un po' dappertutto in giro sui magazine americani, credo l'anno scorso, ed è una storia che ci aveva sempre incuriosito. L'abbiamo poi letta definitivamente sulla CBC, che è un'emittente californiana, che è stata quella che ha coperto maggiormente questo episodio, considerato che da Lake Placid, cioè dalla costa est degli Stati Uniti in sostanza, quest'uomo dopo una settimana è apparso sulla costa ovest dall'altra parte, cioè in California, quindi loro lo hanno raccontata. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia di un uomo che da Venezia finisce in Indocina. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova. Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Linee d'Ombra. C'è in questo episodio particolare della nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco, qualcosa che mi ha fatto ricordare il momento che stiamo vivendo. Il momento che stiamo vivendo ha a che fare con la stasi, con rimanere in casa, con non potersi muovere, non poter viaggiare e quindi con dei desideri repressi di quando tutto questo sarà finito partirò per un viaggio intorno al mondo, quando tutto questo sarà finito faremo una festa in 800 persone, quando tutto questo sarà finito puntini puntini puntini. Ecco, c'è, ma al rovescio, in negativo, tutto questo in questo episodio della storia di Antonio Cocco, perché a un certo punto nella lettera, che in questo caso scrive alla mamma e non al papà, perché manca pochissimo al suo 19esimo compleanno, ripeto, 19esimo compleanno, a 19 anni di solito uno ha appena finito le scuole superiori oppure sta lavorando da qualche anno, però di fatto siamo dei ragazzini e lui invece si è già fatto l'addestramento in regione straniera ed è in Indocina a combattere una guerra. Ebbene, in questa lettera c'è il desiderio di un uomo, per questo vi dicevo è l'opposto rispetto al nostro desiderio attuale, che non vede l'ora, semplicemente a 19 anni dice di essere a casa e di condurre una vita come la amano i vecchi, dice mi sento già vecchio e stanco e vorrei solo tornare a casa, stare tranquillo. Che stupido ero quando pensavo alla libertà, quando pensavo al desiderio di andare a fare cose, voglio solo starmene a casa. È l'opposto di quello che stiamo vivendo noi e ci racconta semplicemente che vogliamo sempre qualcosa di diverso da quello che stiamo vivendo. Ma stiamo con lui, andiamo nelle parole di quest'uomo, di questo giovane uomo che scrive alla madre, andiamo in Indocina. Carissima mamma, tra due giorni avrò 19 anni. Mi ricordo Mariella, la moglie sua. Uno dei primi ricordi che a me ha stupito molto, che un giorno è venuta a trovarci, ci si vedeva spesso e che ha detto: oggi è il 13 di giugno, oggi è Sant'Antonio, Antonio. E ha pensato alla sua mamma, per la mamma. Quindi Sant'Antonio, il 13 di giugno, era il ricordo del figlio. E quando scenderò dal letto, vi sentirò darmi gli auguri e a tavola ci sarà il dolce e l'immancabile regalo per me. Bei giorni quelli. Eppure mi sembrava d'essere un sacrificato. Capirai, dovevo dirvi dove andavo prima di uscire. Invidiavo i vagabondi, amavo la libertà. Povero illuso. Se dovessi ritornare a casa, l'unica cosa che desidero è di starmene in pace e di condurre una vita come l'amano i vecchi. Eppure questi 5 mesi di legione mi hanno cambiato in tutto, dal nero al bianco. Mi sento quasi vecchio e stanco. Ho ricevuto a Saigon la tua lettera, quella che mi avevi spedito a Saida, e puoi immaginarlo con quale gioia. Ero ancora pieno di speranze. Purtroppo tutto è andato a monte, ma non fa niente. Saprò sopportare anche questa dura prova che Dio mi ha dato e spero di uscirne vittorioso. Non è assolutamente il caso di impensierirsi. Passeranno anche questi 2 anni e ritornerò a casa. Perché dice solo 2 anni? Invece di solito ne dice che deve fare 5 anni. Quindi nel territorio nazionale francese tu passi 3 anni, gli altri 2 li passi in combattimento, diciamo così. Quindi lui calcolava i 2 anni. E alla fine dei 2 anni, cioè, lui mi daranno un mese di ferie e in più no, avrò 10 giorni ogni volta che ha una medaglia. Quindi aveva già accumulato 50 in pratica alla fine. E pensava che la prima cosa che faceva, una volta andato in Algeria, sarebbe stato prendere una nave e andare in Italia, insomma. Cioè scappare in qualche modo. Non si sarebbe fatto, cos'era, 2 anni che mancavano, l'anno che mancavano. Su col morale, mamma. Abbraccia tutti. Ti bacio. Tony. Heading from sea. volta, se volete riascoltare tutto questo nostro programma, tutta questa nostra storia seriale, andate sul nostro podcast, scaricatevelo dove volete, dalla app di Radio 24, dal nostro sito o ovunque scarichiate i vostri podcast. Mandateci le vostre storie, lineadombra@radio24.it per farci un'intera puntata. Noi vi diamo appuntamento a domani, grazie a Danita Panizza, a Luca Micheli, a Paolo Corleoni e a Mauro Pescio. Ora il GR, poi vi dicevo domani, puntualissimi alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!